Con otto costruisco mondi, riflessioni. La stabilità flessibile, la flessibilità stabile. Il conflitto si svolge e porta in lande instabili, terremotate, devastate. Può scuotere e suscitare senso di squilibrio e precarietà. Se la sicurezza viene definita tramite la stabilità e affidabilità dei rapporti umani, una qualunque conflittualità mette fortemente in crisi la propria identità. Tutto cambia sempre. L'unica sicurezza durevole, affidabile, si trova nel flusso del continuo cambiamento delle relazioni, dei desideri e delle priorità. Con interesse e attenzione possiamo notare gli spostamenti delle placche continentali interiori, della composizione chimica, delle geometrie che si avvertono soltanto quando iniziano a mutare, per quanto sono consuete e conosciute. L'attrito che si insinua nella quotidianità è sempre un ottimo indicatore per individuare gli scivolamenti degli schemi interiori nel loro procedere verso la libertà e la salute a cui tutte ambiamo. Il conflitto può essere l'indicatore che segnala l'avvento del cambiamento, qualcosa non va più bene nel modo consueto. Il conflitto ci può richiamare alla necessità di trasformazione all'interno dei rapporti, nelle fondamenta dell'essere, nelle azioni, nel giro di amiche e amici, nella gestione della quotidianità. È la natura che mi insegna. Osservarla mi può trasmettere la sicurezza e la flessibilità nel mutamento continuo, unica costante stabile esistente. Nella natura ritrovo la ciclicità della nascita, della crescita, del deterioramento, della morte e della rinascita. Osservo la bellezza nel mutamento di una foglia, il suo spuntare dal suo involucro con energia splendente, il miracolo della fotosintesi a servizio della pianta madre. Il graduale cambiamento di trama, di colore, lo svelarsi della sua ossatura, della sua essenza strutturale, e poi si smembra, si stacca, sostenuta da folate di vento, e nutre altri esseri per fondersi infine con la sua origine, sostanze singole che si intrecciano in una composizione fertile e collaborante, trasmettendo le cognizioni imparate nel viaggio percorso, per contribuire alla sapienza del tutto, lì dove ogni contributo è indispensabile nella sua bellezza e diversità. È in un contesto più ampio che ogni avvenimento della propria vita può trovare una collocazione adeguata, sintonizzandosi con il movimento fluido di cui si è parte e artefice contemporaneamente, acquisendo una stabilità che permetta di accogliere ciò che succede con serena flessibilità. Consenzienti. Capita facilmente che nelle situazioni conflittuali si avvertano tremiti nel corpo, cambiamenti delle temperature corporee, ondate di caldo o di freddo, senso di nausea, accelerazione del battito cardiaco, oppure la voce diventa squillante e insicura e il respiro cambia. Tali reazioni sono del tutto normali e comprensibili, anzi possono servire come indicatori di un cambiamento nel campo, di un aspetto finora ignorato, di uno sviluppo non previsto all'interno di un rapporto o all'interno di una persona. È utile accogliere questi fenomeni come espressioni del disagio condiviso, evitando di fermarsi sulla loro apparenza. A volte portano un'intensità notevole che può essere confusa con aggressione e violenza. Comunque occorre rimanere ben connesse, ben radicate, osservare il proprio respiro, assicurarsi dell'ancoraggio nella serenità e lasciare che l'intensità che si è manifestata nel conflitto possa espandersi nell'accoglienza e aiutarci a riconoscere la sua provenienza e i nostri autentici bisogni. Si possono manifestare cambiamenti fisici quando una donna si avvicina, anche se è sconosciuta, quando soltanto si pensa a una persona con cui bisogna chiarire qualcosa o durante un incontro, anche telematico. Questi cambiamenti possono essere espressione della propria conflittualità, di una confusione alimentata da aspettative o delusioni, di un dolore suscitato dall'essere stata toccata in una ferita profonda. Oppure ci si sente a posto, si sa cosa dire, Non ci sono turbamenti, aspettative o illusioni, però si avverte lo stato d'animo dell'altra. È il campo morfico che tutte condividiamo che favorisce l'amalgamarsi con lo stato d'essere dell'altra. È una condizione naturale dell'essere donna ed è meglio farci l'abitudine perché negare è poco efficace e divertente. Può essere utile esaminare quali siano le cause che ci impediscono di vivere ed esprimere questa coesione naturale, i collegamenti nel sapere intimo, provocandoci piuttosto un senso di vergogna per quello che si prova nel profondo. Se si accoglie l'aspetto condiviso e politico degli stati interiori e della vergogna, accettando di essere soltanto una in un gioco grande, se si coglie che alle altre succede la stessa cosa, magari con colorazioni differenti, allora diventa più facile aprirsi, esporre, denudarsi di fronte all'altra o alle altre. Allora quel vissuto privato assume la qualità preziosa di costituire un tassello fondante di una consapevolezza indispensabile per costruirci sopra la nostra dignità. Posso essere sicura che c'è un livello, forse non conscio, in cui la donna che mi sta di fronte sa come sto, quanto io so come sta lei. Questa premessa può essere motivo per una nuova pratica di sintonizzazione delle mie parole e azioni con quello che mi muove in profondità, in uno scenario vasto e condiviso, tutte noi sappiamo. È meglio non respingere l'avvertimento dei fenomeni che si manifestano e provare invece a decifrare le loro informazioni, a utilizzarli come uno strumento di ricerca e leggerli come delle indicazioni sul cammino che conducono a impulsi, ferite, necessità più profonde che cercano di esprimersi ed essere ascoltate. La magia dell'ascolto. Ascoltare è la mossa che permette di avvicinarsi il più possibile a una realtà condivisibile. Ascoltare vuol dire lasciare che le informazioni arrivino dall'esterno fino a toccarmi, senza che io intervenga con movimenti e azioni che le distorcono. Interpretazioni, giudizi immaginari che modificano in qualche modo il flusso informativo diretto verso di me, sono espressioni dei miei schemi, non dell'altra persona, e nascono dalla paura di farmi toccare nel profondo. È utile osservare dove eventualmente attuo questi meccanismi di difesa, intervenendo su emozioni, avvenimenti, racconti che mi vengono offerti o presentati, anche, anzi con maggior ragione, se ciò avviene in maniera conflittuale, e sviluppare una consapevolezza su ciò che mi spinge a modificare le informazioni durante la loro trasmissione. Così posso provare a distinguere la mia realtà dall'altra e lasciare che la verità della persona che ho di fronte trovi rispetto e accoglienza serena senza che debba lottare per ottenerlo. In questo senso l'ascolto è uno strumento semplice e magico che apre a un'altra ampiezza il respiro e rende il confronto e lo scambio più efficace. Ascoltando si arriva molto più in fretta e più profondamente a comprendere le nostre relative realtà. Ascoltare senza interrompere, senza replicare subito, riconoscendo la diversità della realtà dell'altra persona, stabilisce immediatamente un'atmosfera di rispetto e onestà. Da lì diventa più facile esporre la propria visione della situazione o degli avvenimenti ed entrare in una ricerca condivisa. Ascoltare anche quando il disagio viene espresso con rimproveri, accuse o aggressioni verbali, se si è convinte di volerlo accogliere. Non è difficile prescindere dal livello personale, dove è facile rispondere sulla stessa onda portando il confronto a un'inutile escalation. Ascoltare un eventuale proprio disagio all'interno della situazione e provare a rintracciarne l'origine. Riconoscendo la profonda e comune sofferenza che alimenta le condizioni conflittuali, diviene possibile andare oltre al livello proposto e lasciare che si manifesti un campo compassionevole di ricerca condivisa. Invito a considerare che spesso c'è un'onda di contenuto dopo l'ultima parola pronunciata, un'onda con cui può arrivare il significato più complesso che illumina l'intreccio irripetibile dal quale la donna che mi offre la sua visione parla e agisce. È vantaggioso inserire qualche respiro prima di una reazione o risposta per poter accogliere il complesso vissuto che viaggia prima, con e dopo le parole esposte. Se si riconosce l'esistenza di un conflitto, può essere utile creare uno spazio e un tempo dedicati per affrontarlo senza trascinarlo dentro al veloce tran-tran della quotidianità, dell'organizzazione della giornata, dei compiti, del lavoro, dei progetti. Onorare l'avvento del conflitto permette di avere i sensi liberi e concentrarsi sul dono. E lì, portato dal flusso di parole, lanciato dall'eruzione emotiva. Osservo che nei cerchi e reti di donne, nelle collaborazioni, associazioni, progetti, nelle intenzioni condivise, inaugurate con grande entusiasmo e slancio, nel caso non venisse disposto uno spazio apposito per l'accoglienza delle eventuali situazioni conflittuali, è molto probabile che il malessere culturale, quanto la goffaggine nel gestirlo, ci si rivolti contro nella sua veste distruttiva. Basta invece rintracciare la sua origine. Oltrepassare l'apparenza e l'arricchimento sarà immenso, preziosissimo, immancabile. Riconoscersi. Fra i doni che il conflitto ci può regalare, riconoscersi è fondamentale. Negli occhi dell'altra, nell'esposizione delle sue difficoltà, sul raggio mirato delle sue accuse, mi inonda la cognizione del nostro destino comune, di una realtà persa, un sapere seppellito delle potenzialità nascoste, della meraviglia della nostra esistenza. Riconoscere la povertà nella nostra situazione attuale, il dolore di una cultura eliminata violentemente, le memorie di una dignità altra, di una vita nell'abbondanza, riconoscere la disperazione e la bellezza, lo splendore e la caduta, il sapere e le potenzialità, il tentare, sbattersi, riprendere, rassegnarsi, risorgere. Riconoscere l'essenza divina, la preziosità, il legame indistruttibile con la linfa vitale, con i segreti dell'esistenza. Riconoscere la negazione, i meccanismi elaborati per vivere comunque, sopravvivere, continuare nel sapere di essere custodi, portatrici, creatrici del futuro arcaico. Riconoscere le ferite e le guaritrici, l'intensità d'essere nel collegamento cosmico. Riconoscersi nel divieto di essere polvere stellare. Riconoscersi nell'immensità delle possibilità, danzatrice sulla soglia, messaggera dal niente nella luce che c'è e non c'è. Riconoscersi è un processo che può essere troppo forte nella sua intensità, nel suo dolore, nella sua gioia, nella sua potenza e portata. Nel riconoscersi ci si imbatte e si scoprono, in un frangente d'attimo, molte cose contemporaneamente. Si possono mettere in dubbio i propri modi di vita, il definirsi donna, le scelte della vita quotidiana. Le incongruenze, avvertite nell'altra, possono diventare insopportabili nella loro risonanza con il nostro sistema. Le sofferenze percepite magari non sono contenibili nel contesto stabilito dell'amicizia, della relazione di lavoro o amorosa. Riconoscersi può comportare una minaccia per l'edificio dell'autodefinizione, costruito nel rispetto di paradigmi convenuti. Allora possono scattare i meccanismi per innescare un conflitto corposo, che ha lo scopo di allontanare quel riconoscersi nell'altra, quella connessione immediata che porta fuori dai confini permessi, che minaccia la costruzione di identità e realtà come le abbiamo studiate, imparate, ripetute e interiorizzate. Ma pensandoci bene, che dono immenso! Qui arriva un universo di possibilità e potenza, di sapere ed essere, che ha la forza e le cognizioni per rovesciare le imposizioni, le impostazioni nocive, per innescare una rivoluzione che parte dall'interno, per lenire le ferite con un medicamento autentico e saziante, per adagiarsi di nuovo in una posizione di potere e sacralità, e qui potrai decidere. Vuoi procedere come hai fatto finora o vuoi accogliere il dono? Terza parte, all'abbraccio del mondo. C'è stato un tempo in cui non eri schiava, ricordalo. Camminavi da sola, ridevi, ti facevi il bagno con la pancia nuda. Dici di non ricordare più niente di quel periodo. Ricorda. Dici che non ci sono parole per descrivere quel tempo. Dici che non esiste. Ma ricorda. Fa uno sforzo per ricordare. O se non ci riesci, inventa. Con 9 si affaccia la saggia qua come là. Utopie vissute. Ci può sembrare utopico, lontano, irraggiungibile, troppo precario per rimanere in piedi, troppo vicino ai sogni per confarsi alla presunta durezza dell'esistenza su questa terra. Quel modo altro di vivere, sereno e dignitoso, in sintonia con l'orchestra complessa e in continua innovazione, ci può sembrare irrealizzabile di fronte alla valanga quotidiana di messaggi di distruzione e violenza, di fronte al sentore generale privo di senso e divertimento. Invece, è un modo di vivere che esiste già. Lo troviamo, per esempio, nelle società che vengono chiamate matriarcali, matrifocali, gilaniche. Neologismo creato da Maria Gimbutas, autrice del linguaggio della dea, e ulteriormente sviluppato da Rian Eisler per descrivere l'uguaglianza dei sessi in una società senza gerarchia e autorità predefinite. Questo significa la parola gilanica. Consapevole della possibilità di fraintendimento, prediligo il termine matriarcato come meno tecnico e astratto e più completo nel suo abbraccio dei vari aspetti di una società. La qualità dell'essere connesso, come fulcro e inizio di tutto, il sentire e agire nel matriarcato, lo distingue inconfondibilmente dal patriarcato e si manifesta in modo ciclico e circolare per il benessere di tutto e tutti. E tutte. Le società matriarcali oggi esistenti, come per esempio i Mozo della Cina o i Khoisan del Sudafrica, mantengono integra la dignità che deriva dal rispetto profondo per la vita stessa, che si riflette nella venerazione della grande madre che fa e disfa, nonostante l'incombente cambiamento provocato dalla civilizzazione e dal capitalismo. Non hanno subito l'eliminazione e la subordinazione, come è successo alla gran parte delle culture matriarcali di questa terra da 5.000 anni fa a oggi in tutti i continenti. Heide Goettner-Abendroth, prima ricercatrice europea delle società matriarcali dagli anni 80 del Novecento, ne ha trovate prove storiche ed espressioni attuali che espone in modo completo nella sua ultima opera, Le società matriarcali, Venezia 2013. Ci riferisce il fatto che queste società forniscono una modalità di vissuto in sintonia con la natura, fonte primaria della nostra esistenza e sopravvivenza. Senza guerre, senza disuguaglianza sociale, senza inquinamento e mezzi di difesa, senza povertà e sottomissioni. Sono delle società egualitarie, pacifiche ed ecocompatibili. Sono gestite da donne e praticano la politica del consenso con la partecipazione di ogni donna e uomo fin dall'adolescenza. Invece dell'accumulo di beni, è gradita l'acquisizione di stima e rispetto tramite un comportamento dignitoso e rispettoso all'interno di un'economia condivisa. Invece della concorrenza, viene favorita la collaborazione. Né le donne né gli uomini, rimanendo fortemente legati al loro clan materno per quanto riguarda i doveri di parentela e gli impegni quotidiani, si trovano intrappolati in relazioni amorose isolanti. Non si crea mai il nucleo familiare ristretto e condizionato da interdipendenze economiche e reputazione sociale. Questo perché il clan e l'intimo e indubitato senso di appartenenza ad esso all'interno della sua rete di collegamenti e tradizioni costituiscono la base costante della vita nel matriarcato. Le donne stesse descrivono la loro modalità nei rapporti amorosi come il vero amore libero, visto che non è determinato e appesantito da fattori estranei alla relazione d'amore, come la dipendenza economica, il presunto diritto di possesso della persona amata, cioè la gelosia, o la reputazione sociale. Nella maggior parte delle società matriarcali oggi esistenti è l'uomo che va a trovare la donna durante la notte, fino a quando tutti e due desiderano mantenere la relazione, per tornare all'alba alla sua vita e ai suoi compiti nella famiglia allargata della madre. I beni sono gestiti dalle donne come possesso comunitario del clan. I progetti vengono sviluppati e decisi insieme nell'ottica del benessere di tutti i membri del clan. Le antenate e gli antenati, nonché le generazioni future. Spesso si ragiona considerando i benefici di una decisione per le prossime 7 generazioni. Il fulcro di queste società è l'essere connesso con l'essenza della vita stessa attraverso la coltivazione spirituale. Un termine con cui descrivo, cosciente della sua provenienza da culto, il coltivare tramite il culto, crearsi cultura, nutrendo la dimestichezza con gli elementi di cui è fatta la natura. Essa viene onorata nei particolari del paesaggio, come montagne, laghi, fiumi e terra fertile, che permettono la sopravvivenza e ne definiscono i ritmi, con gratitudine per l'elargizione di cibo, combustibile, riparo e bellezza. Le antenate e gli antenati vengono venerati come dispensatrici e dispensatori di supporto e consiglio, come risorsa su cui poggiare i passi di ogni giorno, con la loro consapevolezza della continuità e dell'intreccio tra le persone e tra loro e il mondo. Nelle società matriarcali, la donna viene riconosciuta e onorata come sorgente della vita, come collegamento fra il materiale e l'immateriale. Non subisce violenza, come nessun altro membro della società, e nella sua presenza si avverte la sua dignità naturale, semplice, gioiosa, compassionevole e responsabile verso ogni manifestazione della vita. Ci si può ispirare alle società matriarcali, sia storiche che attuali, per reinventarsi dei paradigmi idonei alla propria indole divina e dignitosa, per promuovere l'ascolto e la soddisfazione dei bisogni fondamentali e coltivare uno stile di vita gioioso e fluido, in cui il piacere e l'abbondanza prevalgono sull'accumulo dei beni. Nelle società matriarcali non esistono armi, né mura di difesa intorno agli insediamenti o alle città. Non esiste la violenza contro le donne, né contro gli uomini, i bambini e gli animali. Non esiste lo stupro. Nella gestione di eventuali conflitti, che comunque si manifestano, viene considerato il livello spirituale, ovvero intenzioni, informazioni ed esigenze che vanno oltre l'ambito esclusivamente umano e materiale. L'espressione della natura e i desideri o le richieste di antenate, antenati e spiriti sono tenuti nella dovuta considerazione. Da vari decenni si prova a realizzare all'interno delle nostre società, in tanti esperimenti di convivenza alternativa, l'interazione pacifica che nasce da una profonda introspezione, mettendo in dubbio le eredità interiorizzate di un sistema religioso, sociale, economico e politico, sconnesso e dannoso. Un approccio simile alle politiche e la quotidianità del matriarcato si ritrova in tanti degli stili di vita esplorati dai figli e dalle figlie dei fiori, dai fricchettoni, dalle comunità nate dagli anni 60 in poi, dai progetti di donne fino agli odierni ecovillaggi, eco-housing, che stanno nascendo in tutto il mondo. Osservando come stanno le cose all'interno di tali esperimenti, e questo vale per qualunque altro contesto, si può dedurre lo stato di benessere dell'organizzazione sociale. Si può osservare come nelle realtà di convivenza che vivono in stretto contatto con la terra, per legame economico, emozionale e spirituale, sia facile trovare delle donne rilassate, sorridenti e con grande, se non determinante, partecipazione decisionale. Si possono trovare però anche delle tracce della cultura patriarcale su cui risulta difficile intervenire, che si nascondono dietro tabù intoccabili, concetti indubitati dell'amore e della famiglia, della suddivisione sessuata, del lavoro e delle competenze, del diritto al potere e al possesso. Le società matriarcali possono essere di grande ispirazione per risolvere le questioni pressanti dell'epoca attuale, dalla violenza domestica sulle donne a quella intrinseca di una società gerarchica basata sull'accumulo diseguale di beni e ricchezze e sulle disuguaglianze nell'accesso alle risorse per la sopravvivenza. È una società, quella nostra, che consuma l'ambiente considerando la terra e gli elementi che la costituiscono come qualcosa altro e non vitale, quindi feribile, sfruttabile, distruttibile, alterabile. Le protagoniste e i protagonisti dei tentativi di convivenza alternativa si stanno invece dirigendo verso un'altra direzione. Ogni generazione, ogni persona, mette in atto quello che le è possibile nella sua cornice personale ed epocale. Ogni tentativo è un contributo alla rievoluzione, un passo verso la dignità, verso paradigmi gioiosi di abbondanza e accoglienza. Non possono contare però su una tradizione plurimillenaria, anzi devono prima di tutto sfatare e contrastare l'infinità di dogmi e istruzioni di cui le singole persone e lo stesso campo condiviso sono invasi. Ne escono con successi parziali, ma comunque grandi considerando le circostanze, tentativi ambiziosi riguardo alla politica del consenso, che non è la democrazia, alla politica dal basso, all'egualità dei sessi, che sfocia nella stima della differenza di genere, fino alla riscoperta del legame essenziale con la vita, con la terra e il cosmo dei movimenti pagani. Di questo sono testimoni la rinata cultura Wicca, la New Age, e nelle anime più audaci, pronte a rivoltare letteralmente ogni tassello delle certezze tramandate, la spiritualità femminile, che mette al centro della sua ricerca la condizione attuale storica della donna. In queste realtà alternative, la tematica del conflitto fra le donne spesso rimane una dimensione ancora non toccata, non affrontata, anche se vissuta con la solita grande sofferenza e il dispiacere straziante. Sembra possibile, soltanto ora, all'inizio del XXI secolo, che l'argomento possa emergere e diventare avvicinabile e tangibile nelle riflessioni delle singole donne e nei cerchi e riunioni di donne. Oramai si sono create le condizioni, la cornice culturale, l'autostima, una continuità e una rete fra le donne che permettono di sfiorare il grande dolore che inesorabilmente si perpetuerà finché non diventa un tassello consapevole, individuato e collocato alla sua origine. Ora sono a disposizione ricerche storiche femministe che pochi decenni fa erano accessibili soltanto a qualche specialista. Le culture incentrate sulle donne, come Catal Huyuk in Turchia o l'antica Creta, la cultura megalitica di Malta, Troia, le società intorno al Mar Nero, per citare soltanto quelle del Mediterraneo, ma esistevano sparse su tutto il globo, oggi possono essere studiate e avvicinate svelando delle opzioni di organizzazione sociale al femminile che giustificano tutti i dubbi riguardo alla presunta esclusività del modello patriarcale. L'adorabile impegno di tante ricercatrici ostinate, perspicaci, chiaroveggenti e insistenti ha composto man mano un quadro delle culture matriarcali di tutto il mondo. I reperti archeologici sono stati reinterpretati senza la distorsione dello sguardo patriarcale, che si è dimostrato incapace di immaginare e percepire oltre i condizionamenti dei suoi modelli. Per le donne, questa realtà ritrovata e confermata crea e rinforza una continuità che senza questi dati storici poteva solo essere intuitiva, con il rischio di essere considerate fuori, svitate, spostate. Permette loro di affidarsi ad antenate e culture remote, di ispirarsi a vite di donne autorevoli e autonome, realmente esistite, di riferirsi a una cultura che venerava la donna come manifestazione dell'eterna circolarità dell'esistenza, detentrice di potere e consapevolezza. Gli insegnamenti di questa versione della storia, ormai riconosciuta e affermata da settori importanti dell'archeologia, sono inesistenti nei programmi di educazione, anche in quelli alternativi. La sua potenzialità rivoluzionaria insinua dubbi sui paradigmi imparati riguardo a cos'è l'uomo e di cosa ha bisogno per sopravvivere. Abolisce il credo che l'essere umano sia di natura violento e competitivo, interessato alla gerarchia e alla sottomissione. Offre alternative non violente e non statali dell'organizzazione e della convivenza. Sfata la presunta divisione tra organizzazione governativa e convinzione religiosa, che di fatto non esiste, essendo la prima espressione materializzata della seconda. Per verificare questa asserzione proviamo a immaginare un'organizzazione sociale con donne ben accolte in stima e dignità, non gravate dal peso della colpa e della vergogna. Essere al corrente di una continuità storica e riacquisire delle facoltà sensoriali, oggi considerate piuttosto fuori luogo, apre a quello che Mary Daly chiama il futuro arcaico, una prospettiva di vita in sintonia con tutto ciò che si ispira a società già esistite e in parte ancora esistenti, in cui confluisce insieme all'accoglienza dell'enigma sacro della vita in tutte le sue manifestazioni, il nostro attuale stato d'essere, con i suoi sviluppi tecnologici e i suoi specifici desideri, con le conquiste e le curiosità della nostra epoca.